se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio e se prendi impegno renderai.